Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Gaza ora, messages from a dear friend. Testi Hossam Al-Madun, progetto As Theater di Londra e Theater for Everybody di Gaza. Regia Jonathan Chadwick, Ruth Lass, Yante Roach. Produzione Yante Roach, Tanita Spang. Direzione artistica Yante Roach. Letture di Elio Germano, Antonio De Matteo, Tanita Spang, Yante Roach, Leonardo Maltese, Ruth Lass, Fabio Coccifoglia, Marta Vitalini, Manuela Mandracchia. I testi che ascolterete stasera sono tutti scritti da Hossam Al-Madhun, della Striscia di Gaza, inviateci a noi As Theatre di Londra. Lui da inizio ottobre finora ha scritto più di 100 testimonianze. Noi abbiamo selezionato 15 di queste testimonianze e abbiamo tentato di dare con questa selezione un'idea dell'arco cronologico delle vicende di Hossam e della sua famiglia, che raccontano veramente l'esperienza e l'epica di un uomo che cerca di vivere con dignità in un tempo di genocidio. Abbiamo fatto tante letture pubbliche a Londra di queste testimonianze. Hossam Al-Madhun è un attore, traduttore, produttore, co-direttore della compagnia di teatro Theatre for Everybody della Striscia di Gaza, però lavora anche come funzionario, come program manager di una ONG che si occupa di protezione dell'infanzia. E questo è Jonathan Chadwick da Us Theatre di Londra. Con Hossam e Theatre for Everybody abbiamo cominciato a collaborare nel 2002 su un grande programma più ampio, internazionale, con tante compagnie e tanti paesi. Però è dal 2009 che collaboriamo veramente a due, creando dei programmi che si affiancano e che scorrono parallelamente tra Londra e Gaza, e sempre unendo i nostri pubblici al tempo tramite Skype e poi insomma con altre tecnologie. Al fulcro del nostro lavoro c'è sempre il tentativo di creare uno spazio di immaginazione, dove l'immaginazione sia vivida e si incarni, e uno spazio anche dove ci uniamo tra gli spazi fisici che occupiamo, noi nel nord globale, paesi produttori di guerra, e loro nel sud globale, paesi che ricevono la guerra. Terzo giorno di guerra. 2:22 di notte. Cerco di dormire. Non so come. Bombardamenti tutto il tempo. Suoni di bombardamenti mescolati. Suoni di bombardamenti lontani. Suoni ancora più lontani. Suoni non lontani ma neppure vicini. Suoni vicini ma senza impatto sull'edificio. Suoni molto difficili e l'edificio sta tremando. Le finestre vogliono muoversi verso l'esterno, ma qualcosa, non so cosa, le tiene ferme. Forse con il prossimo bombardamento non rimarranno ferme e scoppieranno spezzandosi tutte in una volta. Ma finora non ancora. Dopo tre giorni, con la stessa atmosfera terrificante, insonne, gli occhi mi si chiudono, eppure la mia testa mi scuote per tenermi sveglio, senza mai sapere cosa succederà, senza mai sapere se il prossimo bombardamento ci colpirà o ci costringerà a sfollare come le migliaia che hanno già lasciato le loro case. Abbiamo preparato una borsa per la fuga, ma lo scenario dello sfollamento è un incubo, con mia madre disabile di 83 anni in sedia a rotelle, il mio cane terrorizzato, ma naturalmente con mia moglie che rimane forte. Sì, ho iniziato cercando di addormentarmi. Ok, cerco di nuovo di dormire alle 2:22 di notte. Penso di esserci riuscito. Alle 4:37 del mattino mia moglie, Abir, chiama il mio nome. Sento il mio nome come se venisse da una grande distanza. Abir mi chiama di nuovo. Cosa? Ho detto, tenendo ancora gli occhi chiusi. Stanno bussando alla porta. Apro gli occhi. Non vedo nulla, buio completo, niente, niente elettricità. Nessun generatore di emergenza, nessuna luce debole in strada, buio. Ho detto, non sta bussando nessuno. Lei ha detto, ascolta. Ho ascoltato. Stavano bussando piano alla porta. Ho preso il mio cellulare. Ho acceso la torcia del cellulare e mi sono avvicinato alla porta d'ingresso. Continuavano a bussare leggermente. Chi è? La madre di Saleh, il nostro vicino del quinto piano. Io, senza aprire la porta. Cosa c'è, Om Saleh? È Salma, tua figlia, in Libano. Ha cercato di raggiungerti per ore e, non riuscendoci, ha chiamato mia nipote in Giordania, che mi ha chiamato chiedendo di raggiungerti. E è completamente in panico perché non rispondi. Grazie, Om Saleh. Cerco di chiamare Salma, ma è impossibile, niente internet, niente telefoni cellulari dalle 11 di ieri notte, quando l'aviazione israeliana ha bombardato l'azienda delle telecomunicazioni. Salma, la nostra unica figlia, che è lontana da noi per la prima volta nella sua vita, è in Libano da un mese per il suo master. Mi sento molto frustrato. Devo trovare un modo per contattarla, rassicurarla. So che crollerà se non avrà notizie da noi. Ha già pensato di abbandonare il suo master e tornare da noi. I bombardamenti continuano mentre ciò accade. Il cane si attacca a me per paura. Mia madre si sveglia chiedendo di andare in bagno e cerco di pensare a cosa fare. Cerco di chiamare Salma con il cellulare, ma tutte le chiamate falliscono. Sono sceso nel seminterrato dell'edificio dove ci sono rifugiate almeno 6 famiglie dei piani superiori. Ho chiesto se c'è qualche alternativa per internet o per le comunicazioni. Dicono no, no, nessuno di noi riesce a connettersi. Il custode dell'edificio ha detto, se esci dall'edificio, magari lì prende. Uscire con questo buio in strada, mentre ci sono bombardamenti ogni singolo secondo e nessuno sa dove e quali sono gli obiettivi. Però non mi c'è voluto nulla. Mi sono allontanato dall'edificio nella direzione indicata dal custode, cercando di chiamare. Tentativo fallito. Muovendomi ulteriormente, cercando di nuovo, fallito. Muovendomi e tentando di nuovo. Dopo almeno 17 volte il cellulare ha squillato all'altro capo. Salma? Sì. Finalmente. Lei non ha detto nulla. È scoppiata in pianto. Io ho capito. Potevo immaginare cosa avesse pensato durante queste ore senza poterci raggiungere. L'ho lasciata piangere. Io volevo tanto piangere. Non potevo. Non dovevo. Come va, Salma? Stiamo bene. Siamo vivi. Lo sai che la comunicazione è interrotta. Non so davvero cosa abbia detto finché non si è calmata. Poi è andata all'università e io sono tornato per riflettere con Abir se sfollare o meno. Ma per andare dove? Sono le 9:45 del mattino. Ho finito di scrivere questo post. Il destino di essere sotto questa occupazione ostile non mi lascerà mai. Sesto giorno di guerra, prima parte. 2:22 di notte. Che coincidenza. Come mai alla stessa ora del terzo giorno? Alle 2:22 di notte Abir mi sveglia. Ero andato a letto all'1:45. Che succede? Alzati e vieni a vedere questo. Cosa? Mi mostra un messaggio sul suo cellulare. La Commissione Internazionale della Croce Rossa ha mandato un messaggio allo staff che chiede a tutti di sfollare dal nord della striscia e da Gaza City, verso l'area centrale di Gaza, perché l'esercito israeliano sta pianificando di distruggere il nord. Ogni residente dei due comuni del nord deve andarsene tra l'alba e le due del pomeriggio. Come? Due comuni su cinque comuni saranno completamente distrutti e 1.100.000 persone devono andarsene verso il centro e il sud. Il messaggio è arrivato con una cartina di Gaza che indica le zone da evacuare. Per via dei bombardamenti continui, molte famiglie del nostro edificio stanno passando la notte nel seminterrato. Il palazzo ha 7 piani e contiene 32 appartamenti. Mi sono messo dei vestiti e sono sceso a vedere se qualcuno aveva ricevuto quel messaggio. Nel seminterrato, sopra un grande tappeto e qualche materasso, ci sono 8 uomini e 13 bambini. Dormono tutti. Sveglio uno dei vicini e comincio a parlare con lui del messaggio. Il resto degli uomini si sveglia, qualcuno comincia a telefonare e dopo qualche minuto il messaggio è confermato da molte persone. Lo staff dell'ONU ha ricevuto quello stesso messaggio. Sono tornato in casa per consultarmi con Abir. Dove andare? La seconda domanda rimane sospesa nell'aria, senza risposta. Che fare con la mia vecchia madre che è immobilizzata? E il nostro cane? E la nostra casa? Cosa succederà alla nostra casa? Abbiamo speso 25 anni delle nostre vite lavorando come cani per risparmiare abbastanza da avere una casa nostra. Alle 2:22 di notte fino alle 6:30 del mattino non siamo riusciti a ragionare in modo coerente. Non ci fidiamo degli israeliani. Fanno dei massacri, ne hanno già fatti molti, ne siamo stati testimoni. Non possiamo rischiare di rimanere qui. Decidiamo di andare nella zona centrale, al campo Noiserat, per rifugiarci dalla famiglia di Abir. Stanno già ospitando la famiglia di sua sorella, due ragazze, padre e madre. 6:45 di mattina, mentre riempio l'auto con altra roba che potrebbe servirci, ci chiama Salma. Ha saputo le notizie, era in preda al panico, piangeva. Abbiamo cercato di calmarla. Nessuna parola avrebbe potuto calmare nessuno in questa situazione. Finalmente ha capito che eravamo ancora vivi e che partivamo. Ho vissuto 55 anni su questa terra e non sono stato testimone di nient'altro che violenza, prigionia, morte, sangue, bombe, bombardamenti aerei, embarghi, restrizione di movimenti, nessuna speranza, nessuna sicurezza. E perché? Perché tutto questo? Perché accidentalmente, geograficamente, sono nato a Gaza. Che peccato è? Che accusa è? Nato a Gaza, bollato come terrorista dagli israeliani dal mio primo respiro. Con la luce verde dell'Occidente perché facessero di noi quello che volevano. 6:55 di mattina, suona il cellulare. È il figlio di un amico, la cui casa è stata molto danneggiata due giorni fa, dopo che hanno bombardato un edificio lì vicino. Rispondo alla chiamata. Sì, Yusuf, dimmi. Yusuf, ho troppa gente da spostare a Khan Yunis. Hai posto in macchina per due o tre persone? Non potevo dare altra risposta che sì. Ho parlato con Abir, che aveva già riempito metà del sedile posteriore con la roba da portarci dietro, ma non possiamo lasciare la famiglia del mio amico senza aiuto. Cominciamo a riorganizzare le nostre cose in ordine di priorità e riportiamo metà della roba in casa. 7:25 di mattina ci muoviamo verso la casa del mio amico con la mia vecchia madre sul sedile anteriore e Abir col cane su quello dietro, dopo aver liberato lo spazio per altre due persone. Abbiamo preso con noi un'altra vecchia signora e un giovane. Grande frastuono di bombardamenti, non lontano, ma non sappiamo dove. Prima di partire dobbiamo decidere che strada prendere. Quale sarà la più sicura? Gaza, 42 km di lunghezza e da 6 a 12 di larghezza, è connessa da nord a sud soltanto da due strade principali. Quella lungo il mare, che è esposta ai bombardamenti navali israeliani, e la strada Salah ad-Din, che è esposta ai bombardamenti dell'aeronautica e dell'artiglieria da est. Non c'è molto tempo per fare grandi ragionamenti. Le chance che siano sicure sono 50 e 50. Cominciamo a guidare. La strada lungo il mare è vuota, poche auto la percorrono. Alcuni guidano con riluttanza, altri invece vanno molto veloci. Di quando in quando vediamo edifici distrutti lungo questa strada del mare, con le macerie che bloccano la strada, e più di una volta dobbiamo girarci intorno. Guardando il mare, con le navi della marina all'orizzonte e le vecchie signore che pregano a voce alta, Abir che cerca di parlare con loro per tenerle calme, e il cane intanto che è assolutamente silenzioso, come se sapesse che c'è qualcosa che non va. Rumore di bombardamenti. Sesto giorno di guerra, seconda parte. Il nostro piano era di fermarci nell'area centrale, a soli 14 chilometri. Ma non possiamo lasciare i nostri amici. Continuiamo a proseguire con loro fino a Khan Yunis, 32 chilometri. Arriviamo sani e salvi. Mia madre sta piangendo. È nell'auto da un'ora e mezza. Il suo corpo non riesce più a sopportare il dolore. Iniziamo il viaggio verso Nur Seirat, verso la famiglia di mia moglie. Andiamo verso nord e ora ci sono molte più auto che si muovono da nord a sud, auto piene di gente e di roba, e quasi ogni auto ha dei materassi legati sul tetto. Alcuni materassi e coperte volano giù e a volte li vediamo sparsi qua e là sulla strada. Rumore di bombardamenti tutto il tempo. 9:42 di mattina. Arriviamo a Nur Seirat. Ognuno comincia a svuotare la macchina. Il cibo che avevamo preparato dal nostro frigorifero l'abbiamo dovuto buttare via. Carne e pollame erano marci. L'elettricità era stata tagliata da 2 giorni. «Avete abbastanza gas per cucinare?» chiedo, sapendo che forse non ce n'era. «Ne abbiamo un po'. Avete abbastanza materassi? Ne abbiamo qualcuno?» Avete acqua da bere a sufficienza? Ne abbiamo un po'. Il rumore dei bombardamenti non si ferma. Quando la macchina è vuota, mi rimetto alla guida. Abir grida: «Cosa stai facendo? Dove vai?» Torno a Gaza City a prendere quello che abbiamo riportato in casa. Non possiamo sopravvivere senza. Ho risposto e sono partito ignorando le sue grida. Sapevo che tornare a Gaza City poteva essere un tentativo suicida. Gli israeliani vogliono che ci muoviamo verso sud, fuori da Gaza City, non verso nord, tornando a Gaza City. In meno di 12 minuti ero a casa. Credo di aver guidato a 140 all'ora, non per coraggio, ma per paura. Ho riempito l'auto con tutto ciò con cui sono riuscito a riempirla: bottiglie d'acqua, materassi, coperte, 2 bombole di gas per cucinare da 12 kg l'una, e persino i biscotti che erano davanti a me, credo senza volerlo, o forse pensando ai bambini del gruppo. Giorno 9, 9:52 di sera. Sul materasso, da solo al buio, alla luce del cellulare, col rischio di finire la batteria, nella speranza di riuscire a scrivere sul foglio ciò che ho in testa. Ecco, adesso sto riscrivendo quello che avevo già scritto sul foglio, perché ieri sono riuscito a caricare un po' della batteria del computer alla moschea qui vicino, che ha un pannello solare. Siedo sul materasso cercando di ricordare cos'è successo in questo strano giorno. Qualche bombardamento e l'incessante rumore del drone sopra la mia testa. Alle 10 sono andato al mercato di Nur Seirat. Il campo profughi Nur Seirat è al centro della striscia di Gaza, dove mi sono rifugiato con mia moglie e mia madre, dopo aver lasciato la nostra casa di Gaza City cercando un incerto riparo nella casa di famiglia di mia moglie. Il campo ha una strada principale che lo taglia al centro, da Salah ad-Din Road fino al lungomare. Il mercato principale, situato a metà di questa strada, è lungo circa 200 metri. Su entrambi i lati ci sono negozi alimentari, supermercati, fruttivendoli, carne, pollo, prodotti domestici, negozi di vestiti, articoli di seconda mano, c'è tutto in questo mercato. Il campo di Nuseirat ha 35.000 abitanti, ma improvvisamente nel giro di 2 giorni ha accolto più di 100.000 persone che sono scappate dal nord e da Gaza City, cercando riparo e sicurezza. La maggior parte si sono rifugiate nelle 13 scuole del campo, senza niente, se non quel poco che sono riusciti a portare con sé. Nessun supporto vitale. Cibo, acqua, letti, coperte, materassi, tappeti, niente. Niente. Nella speranza che UNRWA e le ONG internazionali si occupassero delle loro necessità primarie. Io conosco il campo di Nuseirat. È sempre affollato. C'è solo questa strada, lunga 200 metri e larga 20. Arrivo al mercato alle 10:20 del mattino. Sono solo 5 minuti in macchina dalla casa dei miei suoceri. E cosa vedo? Questo non è il mercato che io conosco. Migliaia e migliaia di persone ovunque. Uomini, donne, bambine e bambini, anziani, madre con i figli, gente di tutte le età, che va avanti, indietro, su, giù, che entra e esce dai negozi su entrambi i lati della strada nel tentativo di acquistare del pane o altri beni di necessità delle persone. Mi accorgo di qualcosa di strano, non normale. I volti sono tutti cupi, gli uomini tengono la testa bassa. Si capisce subito che sono distrutti, deboli, sconfitti, incapaci di provvedere all'incolumità dei propri figli, che è la prima cosa che ogni padre vorrebbe garantire alla sua famiglia. Camminando tra la gente si percepisce la paura, il panico, la disperazione, si sente l'oscurità attraverso cui si muovono, anche se è giorno. È mattino, ma sembra buio. Un buio che si è fatto materia, che si può toccare con la mano. Tutti si muovono velocemente. Si potrebbe pensare che si stiano affrettando per comprare cibo o provviste, ma guardando più da vicino ci si rende conto che vanno di fretta per nascondere la propria vergogna, la propria paura. Una vergogna che non hanno il diritto di provare, ma che provano lo stesso. Vogliono nascondere la loro impotenza, le loro ansie, le loro paure, la febbre, la frustrazione. È il giorno del giudizio. Hanno lasciato la propria casa senza sapere se vi potranno mai ritornare. Le storie dei loro padri, dei loro nonni che parlavano dell'espulsione, delle migrazioni imposte nel 1948, nel 1967, risuonano nella loro testa. Durante quel genocidio i palestinesi hanno perso le loro case, le loro terre e molti anche la vita. Ora vivono nel terrore che questo sia un nuovo genocidio. E forse questo il nostro destino di palestinesi. Di tanto in tanto ci tocca subire un nuovo genocidio. Cerco di calmarmi. Perché ero venuto al mercato? Ah sì. Sì, devo comprare del pane e qualcosa da mangiare. Dal panettiere c'è una fila di più di 100 persone, ci vorranno ore per prendere il pane. Chiedo a mio cognato di mettersi in fila e vado al supermercato per fare il resto della spesa. A un tratto il fragore di un bombardamento non lontano, molto forte. Ogni singola persona nel mercato rimane immobile per un istante. E io pure. Come se qualcuno avesse schiacciato il telecomando. Pausa. Per poi schiacciarlo di nuovo. La gente ricomincia a fare quello che stava facendo. Nessuno si ferma per vedere dove sia il bombardamento, visto che c'è un bombardamento ogni 5 minuti. Centinaia di bombardamenti tutti i giorni, dappertutto. Storie di case crollate in testa ai loro abitanti. Siamo isolati dal mondo. Senza internet, radio, TV, notizie. Siamo noi la notizia. Ma non sappiamo niente di ciò che succede. Abbiamo solo dei cellulari che si connettono con molta difficoltà dopo molti tentativi. Nessuno riesce a rimanere aggiornato su cosa stia succedendo. Mentre faccio la spesa mi suona il telefonino. È Abir che urla. Torna subito a casa. Salma ha avuto un attacco di panico. Non smette di piangere. Sono corso a casa con mio cognato senza riuscire a prendere il pane. Sulla strada del ritorno abbiamo visto un'ambulanza e delle persone vicino ad una casa distrutta, vicino al cimitero, che è a metà strada tra casa nostra e il mercato, a 300 metri da entrambi. Due corpi coperti vanno sul ciglio della strada, mentre dei paramedici stavano portando un altro corpo, deponendolo vicino agli altri due. Arriviamo. Cos'è successo? Ho chiesto. Abir mi risponde: Salma ha sentito al telegiornale in Libano che c'è stato un bombardamento vicino al cimitero e sa che casa nostra non è lontana, è andata in panico. Ha pensato che potessimo essere provato almeno 13 volte a prendere la linea. Finalmente Salma mi ha risposto: ma figlia adorata, stiamo bene. Era lontano da qui. Ci ho messo 5 minuti a calmarla. Io e Abir siamo a Nusseirat. Il cimitero era a 300 metri da lei e a 300 metri da me. Eppure nessuno dei due sapeva cosa vi fosse successo. Mia figlia, a 270 chilometri di distanza in Libano, ha saputo quello che era successo prima di noi. Noi siamo all'oscuro di tutto. Bene, per stanotte è abbastanza. La batteria del cellulare sta finendo e la schiena mi fa troppo male. 22 ottobre 2023. Dopo una notte terrificante e spaventosa di bombardamenti ed esplosioni tutte intorno a noi, senza mai sapere dove o quando potrebbero colpirci, ho dovuto concentrarmi su mia madre. Mia madre di 83 anni, costretta a letto, ha una lacerazione di 12 centimetri all'interno dello stomaco. Prende granuli di Nexium due volte al giorno prima di mangiare, per proteggere il suo stomaco da se stesso. Non sempre funziona. Una volta ogni 2 o 3 mesi inizia ad avere forti dolori e conati di vomito, continui e dolorosi. Quando succede smette di mangiare e bere qualsiasi cosa, persino l'acqua, perché tutto ciò che entra nel suo stomaco viene immediatamente rigettato dolorosamente. A volte si ferma da solo dopo 2 o 3 giorni, a volte peggiora. Quando l'esofago si ernia a causa dei conati di vomito e inizia a sanguinare nello stomaco. Poi vomita liquido marrone, scuro. È un sanguinamento interno. È un segnale di allarme. Indica che deve essere portata in ospedale. Per esperienza so come procedono. Le somministrano polvere di Nexium mescolata con soluzione salina per via endovenosa. Deve andare in ospedale. Quale ospedale? Quale? Uno di quelli che sono stati completamente distrutti? Uno di quelli che ricevono centinaia di feriti tutto il tempo? Chi avrà tempo per un'anziana con un problema allo stomaco mentre ce ne sono centinaia che hanno bisogno di interventi d'emergenza? Ho deciso di andare al mercato e all'unità di assistenza sanitaria primaria dell'UNRWA per cercare gli articoli di cui ho bisogno per eseguire la procedura qui a casa. Nexium in polvere, soluzione salina, cannula, siringa, alcol e medicazione. Camminando da casa al mercato, tracce dei bombardamenti della scorsa notte su entrambi i lati della strada. Case e edifici completamente danneggiati, distrutti, sopra le teste dei residenti. Nessun preavviso. Una vera e propria carneficina. Passando per un uliveto, poveri ulivi. È la stagione della coltivazione. Nessuno coltiverà gli ulivi quest'anno. Le olive cadranno a terra, si seccheranno e marciranno. Gli alberi di ulivo si seccheranno e tutti i rami cadranno e saranno dispersi dal vento d'autunno e gli uccelli e le colombe non troveranno rami di ulivo per costruire i loro nidi per le future generazioni. Bombardamenti molto vicini, dietro l'ulivo. Sentito il bombardamento, il suono è molto forte. Un'onda di vento caldo mi passa sopra, mi sposta da dove sono, mi fermo e mi avvicino alla recinzione dell'uliveto. Dopo pochi minuti sento urlare, la gente piange e grida. Mi muovo velocemente oltre l'uliveto e sul lato destro di una strada stretta. Alla fine della strada una casa bombardata, la gente tira fuori i corpi delle macerie. Una piccola auto mi passa accanto molto veloce. Il conducente sta suonando il clacson dell'auto. Mentre mi passa vicino vedo per un solo momento una donna sul sedile posteriore che tiene in braccio una bambina ferita, una ragazza di forse 7 o 9 anni, È stato molto veloce, non potevo sapere che tipo di lesione avesse o l'età esatta della ragazza. Ma ho visto sangue e polvere su tutto il suo corpo. È troppo. Ne ho avuto abbastanza, non posso continuare più a lungo. 55 anni pieni di violenza, sangue, morte, agonia, sfollamento, povertà, tristezza, impotenza, disperazione. Non posso più sopportarlo. Non ho più forza per sopportare una situazione del genere. No, non ne ho più. Voglio arrendermi. Lo dico sul serio. Sono davvero pronto ad andarmene. In tempi come questi, in tempi di guerra come questi, nel 2009, nel 2012, nel 2014, nel 2021, nel 2022, nel 2023, quando Salma diceva che non ce la faceva più, le dicevo di ascoltare la canzone di Peter Gabriel, don't give up because you know you can. Peter Gabriel mi ha aiutato molto, prima. Ora non mi aiuta più, scusa Peter, non ce la faccio più. C'è mia madre, c'è mia figlia, ci sono le mie sorelle, i miei fratelli che credono tutti che possa farcela, che dovrei esserci per loro. Ho continuato a camminare verso il mercato, non riuscivo a fermare le lacrime. Volevo gridare, urlare, bestemmiare. Volevo un abbraccio. Ho davvero bisogno di un abbraccio. Arrivato all'unità di assistenza sanitaria primaria dell'UNRWA, dove faccio volontariato con la ONG Humanity and Inclusion, ho visto un medico, mi sono avvicinato spiegandogli la situazione e la necessità di mia madre. Scusa, non c'è Nexium in farmacia, niente cannule, è stato distribuito tutto nei rifugi per la cura dei feriti dismessi prematuramente dall'ospedale, per liberare posti per quelli più recentemente feriti. Ma posso procurarti la soluzione salina? La Valle della Morte. Mio fratello maggiore, che ha 60 anni, ha trovato rifugio nell'ospedale Shifa il 12 ottobre 2023 con i suoi due figli, Mohammed di 23 anni e Hisham di 15 anni, e con sua moglie, malata e cieca. Mia cognata soffre di insufficienza renale, ha bisogno di un trattamento 3 volte alla settimana. Le devono collegare le vene a un macchinario che le ripulisce il sangue. Ogni volta l'apparecchio fa le funzioni dei reni per 4 ore. In effetti, è per questo che hanno deciso di rifugiarsi all'ospedale Shifa. Molti dei 50.000 sfollati nell'ospedale Shifa sono familiari di malati cronici e sono lì per poter accedere alle cure più facilmente. Molti sono familiari di persone ferite durante la guerra. Bene, ieri mio fratello e la sua famiglia hanno deciso di andarsene. Erano sicuri che sarebbero stati uccisi se fossero rimasti lì. Vanno a sud, fuori da Gaza City. Mio fratello trascina sulle sue spalle i suoi 60 anni di agonia, povertà, duro lavoro, dolore. Suo figlio Mohammed spinge la sedia a rotelle con sopra la madre. La madre tiene in grembo una borsa di robe, vestiti, un po' di cibo, e Hisham, il ragazzo, porta uno zaino e un borsone. Con le bombe, gli spari, il rumore dei droni, gli aerei militari che li sorvolano, il rumore della folla tutto intorno, loro scappano. Per 200 metri mio fratello e la sua famiglia hanno camminato in uno scenario simile a un campo minato, fianco a fianco con la morte. Hanno anche visto dei cadaveri lungo la strada, sorpassando carri armati, soldati, andati avanti per altri 2 chilometri prima di arrivare in una zona dove c'erano altre persone, 1 chilometro prima dei campi di Bureij e Nuseirat. Alla fine hanno trovato un carretto con un asino che li ha portati all'ospedale Al-Aqsa a Deir al-Balah, a 18 chilometri a Gaza City. Nulla di diverso dall'inferno di Dante nella Divina Commedia. Forse Dante si sarebbe anche ispirato un po' di più se si fosse fatto quel tratto di strada. Per prima cosa, la mattina dopo sono andato a Deir al-Balah. Era presto. Sono andato a piedi. Oggi ho fatto 11,5 chilometri a piedi in totale. E quando sono arrivato c'era gente dappertutto. Il cortile davanti all'ospedale, quello sul retro, erano pieni, pieni di sfollati, feriti, famiglie. E all'ingresso dell'ospedale c'erano 3 cadaveri, appena arrivati da Nuseirat per un bombardamento di una casa. Allora io ho cominciato a chiedere in giro riguardo ai nuovi arrivati da Gaza City. Ce n'erano parecchi. E ho continuato a chiedere, a cercare, finché non li ho trovati. In un piccolo spazio di 2 metri quadrati, messo a disposizione da una famiglia che ne occupava 4. In questi pochi giorni, da quando l'avevo visto l'ultima volta, 40 giorni fa, mio fratello è invecchiato di 50 anni. Hisham stava seduto accanto a sua mamma e non diceva niente, non faceva niente. I suoi occhi non si muovevano, guardava di lato, guardava il nulla. Io ho provato a parlargli, ma non rispondeva. Hisham, il ragazzo cui io voglio più bene, il ragazzo che mi vuole più bene, Hisham, che ogni volta che vado a trovare la sua famiglia, corre verso di me per abbracciarmi. Hisham non mi risponde. Ma che è successo, ragazzo mio? Ora io non so se siano state le tecniche di pronto soccorso che ho imparato lavorando come funzionario nella protezione infanzia, oppure se sia stata la forza dell'amore, ma dopo un quarto d'ora Hisham mi ha parlato. Si è lanciato tra le mie braccia e ha pianto. Ha pianto come non aveva mai pianto e ha pianto, pianto, pianto. Il suo corpo si scuoteva tra le mie braccia. Io non ho pianto. Ho cacciato indietro le lacrime che volevano uscire per forza. Io le ho trattenute e ora mi bruciano qui dentro. Piangi, bambino. Piangi, figlio mio, non ti vergognare. Piangi quanto ti pare, piangi per tutta la paura che hai avuto. Piangi finché il tuo pianto non arrivi al cielo, oppure raggiunga un cuore commosso in questo mondo matto. L'effetto farfalla. Ieri sono stato fortunato. Mi sono assicurato un sacco da 25 kg di farina per il pane. 5 volte il prezzo originale. Dovrebbe bastare per 2 settimane alle 18 persone in casa. Posso anche pensare di ottenere, spero, mezza bombola di gas, 6 kg, che potrebbe anche durare 10 giorni. Anche questo al triplo del prezzo originale. La legna per il fuoco è rara. La striscia di Gaza è così piccola e l'area agricola così limitata. Niente boschi o giungle. Le persone hanno iniziato a tagliare gli alberi per farne legna da ardere. Anche se gli alberi freschi sono bagnati, non bruciano e non fanno fiamme. Comunque le persone sono disperate, quindi fanno quel che possono per sopravvivere. Povera Gaza, non resterà neppure un albero. Gli olivi sono stati massacrati, gli alberi per le strade sono tutti rasati. E chi può biasimare le persone che non hanno alternativa? Le situazioni disperate inevitabilmente portano le persone a soluzioni disperate. Tornando a casa dal mercato, su una carretta trainata da un povero asino malfermo, ho visto una piccola farfalla bianca svolazzare accanto all'asino per più di 5 minuti. Che meraviglia vedere una bellezza nel mezzo di questa oscurità. Mi ha fatta sorridere. Fino a quando mi sono ricordato che in alcune culture la farfalla bianca è simbolo della morte in arrivo. Personalmente non credo a queste superstizioni, ma a essere sincero non sono riuscito a scacciarmi l'idea dalla testa. Ieri notte più di 500 esseri umani uccisi a Gaza, da nord a sud. La maggior parte erano bambini e donne. Intorno a me, mentre scrivo questo pezzo, i bombardamenti a raffinaia di persone vengono uccise in questo momento. Forse anch'io e la mia famiglia saremo tra questi. Chi lo sa? Tutti coloro che sono stati uccisi, più di 22.000 esseri umani, uccisi in questi 55 giorni, non avevano idea che sarebbero stati uccisi in questo modo brutale. Povera farfallina, tu non hai assolutamente nessuna colpa. Sei bella. So benissimo che non sei stata tu, né il tuo effetto. So che è stato l'esercito d'occupazione israeliano che ha ucciso senza nessuna pietà tutte queste persone. PS. Mi piacciono le farfalle. Parole disabili. Hossam a Gaza, 23 novembre 2023. A che servono le parole quando ti accorgi che non sono capaci di descrivere, spiegare, esprimere un sentimento o un avvenimento? Sono quasi 10 giorni che non scrivo nulla. Ci sono molte cose di cui vorrei parlare, ma le parole sono disabilitate. Le parole non rifletteranno ciò che vedo, ciò che sento, ciò che voglio raccontare. Ieri ero in clinica e aspettavo i miei colleghi, i consulenti psicologi, per assegnare loro i compiti da svolgere e organizzare i turni nei rifugi e nelle scuole per dare sostegno psicologico ai bambini. Uno di loro era assente. Il mio amico mi ha raccontato cosa era successo. Il marito di sua figlia e il suo nipotino erano stati uccisi. Si erano rifugiati nella stessa casa. Ma ieri il marito di sua figlia era andato a trovare sua mamma che sta da un'altra casa, con la famiglia allargata. Ha portato con sé il figlio maggiore, Wassim, di 6 anni. La casa, un edificio di 6 piani, abitato da 37 persone, è stata bombardata. Sono morti tutti, uomini, donne, ragazzi, ragazze, sono morti, tutti morti. Mentre il mio amico mi parlava, sua figlia, che conosco da quando aveva 7 anni, era nelle vicinanze. Stava appendendo i vestiti del figlio morto al filo del bucato, come se nulla fosse. Aveva lavato i vestiti del bambino morto e li stava stendendo ad asciugare al sole, così che quando sarebbe tornato se li sarebbe potuti mettere. Guardandola cercavo le parole che avrebbero potuto descrivere che cosa stesse provando, che cosa stesse pensando. Non le ho trovate le parole. Quali parole possono spiegare questa cosa? Quali parole la possono descrivere? Ma maledizione, dove sono finite le parole? Perché non mi aiutano? Le parole sono deboli. Le parole sono disabilitate, le parole sono paralizzate. Nessuna parola può spiegare cosa lei senta o pensi. Ha perso il marito e il figlio di 6 anni. Il corpo del figlio è stato trovato e seppellito. Il marito giace ancora sotto le macerie con altre 14 persone su 37. Odio le parole. Mi fanno sentire inerme. Ma fanno sentire stupido, anche solo al pensiero di poterle usare su questo argomento. E mentre parliamo loro fanno il nome di Mahmoud, il mio amico Mahmoud, è lo zio del marito. Si era rifugiato nella grande casa di famiglia con la moglie e i bambini, con il fratello, sua moglie, i bambini e i loro parenti. Erano tutti là. Sono morti tutti. No, ti prego, no, no Mahmoud. No, no, no, lui non può essere morto, non posso accettarlo. Mahmoud non è morto, Mahmoud è vivo. Per piacere ditemi che non è morto, vi prego. L'ho incontrato al mercato di Nuseirat 3 giorni fa, ci siamo abbracciati, abbiamo chiacchierato, abbiamo riso. Non puoi incontrare Mahmoud e non ridere. È così bello, così elegante, ben vestito, sempre rasato sulle guance e sulla testa. Un gran sorriso non si stacca dal suo viso nemmeno un istante. Il suo bellissimo sorriso riempie l'aria di gioia e felicità. È una di quelle persone che fanno sentire tutti bene, rilassati. Il sorriso di Mahmoud spalanca tutte le finestre alla speranza e al benessere. Il suo cuore è così grande, più grande del mondo intero, può tenere tutto il mondo nel suo cuore. Lui è uno di quelli che sono sempre disponibili per aiutare, sostenere, risolvere i problemi, stare con la gente che non ha. Lui è disponibile per tutti, come se Dio l'avesse creato per gli altri. Non può morire. Oddio, Mahmoud, amico mio, perché? Ma perché? Perché? Io, dopo aver scritto questo pezzo su Mahmoud, mi sento male. Molto male. Tutte queste parole non sono niente. Non dicono niente del mio amico. Lo rimpiccioliscono. Mentre lui è molto di più. Le parole sono maledette. Le parole sono deboli. Le parole sono impotenti. Nessuna parola può descrivere quello che sento io ora. Le parole non esprimeranno quello che io voglio dire su Mahmud. Pessimo figlio. Sì, mia madre è arrabbiata con me. E ha ragione ad esserlo. Sono un figlio. Oggi sono tornato dal lavoro e stava piangendo. Sì, mia madre di 83 anni, bloccato a letto, stava piangendo. All'inizio si rifiutava di dirmi il perché. Diceva solo: voglio tornare a casa, riportami a casa. Le ho spiegato molte volte che questo non è più possibile. Da quando abbiamo lasciato Gaza City il 12 ottobre e siamo venuti qui a Nuserat. Le ho detto molte volte che l'esercito israeliano ha isolato Gaza City e il nord, bloccando la strada al bivio di Netzarim, il bivio tra Gaza Nord e la parte centrale della striscia di Gaza. Non mi crede. Ho smesso di tentare di convincerla. Mi sono seduto sul mio materasso, davanti al suo letto, e ho ascoltato le sue lamentele. Non sei più lo stesso figlio che avevo. Da quando siamo qui, non mi ha fatto più vedere le mie figlie, i miei figli, i miei nipoti. A casa mi venivano a trovare tutti i giorni. Li vedevo tutti i giorni. Adesso non vedo più nessuno, non chiamo nessuno. Mi ha tolto tutto. Non mi porta caffè o dolci, caramella, neanche frutto, nessun tipo di frutta. Mi portava le banane, le pesche, i datteri, le mele, le fragole, tantissima frutta. Adesso non mi porta niente. Dici che gli israeliani non la fanno arrivare a Gaza, ma come? Come può pensare che ti creda? E come posso biasimarla? Non lo faccio. Capisco che tutto questo non sia facile da credere. Come può una persona che è padrone della sua facoltà mentali credere che non sia possibile raggiungere casa nostra, che dista solo 9 chilometri? Come? Come può essere che non ci sia il caffè al mercato? Come? Come può essere che non ci siano caramelle, dolci, frutta al mercato? Come? Non è colpa di mia madre, è colpa mia, perché non sono capaci di volare e di attraversare i confini e di arrivare fino a un posto dove io posso trovare frutta, cioccolato, caramelle, caffè e tutto quello che mia madre desidera. È colpa mia se non riesco a raggiungere Khan Yunis o Deir el-Balah o Rafah per andare a prendere i miei fratelli e le mie sorelle in modo che mia madre possa vederli. È colpa mia se non ho una bacchetta magica per aggiustare le reti di comunicazione con un tocco magico. Scusami, madre, perdonami di essere un pessimo figlio. Terza evacuazione a Rafah. A questo punto decisione. Il cognato di Abir e la sua famiglia, le sue cugine e la loro figlia, sono arrivati a casa dei miei suoceri, una casa che pullula di donne e bambini. Alcuni di noi dovranno spostarsi a Rafah, la destinazione successiva, dopo Gaza City e Nuseirat. Loro fanno tutti parte della famiglia. Io rimango l'estraneo. Decido di tenermi stretta a mia madre e di andarmene con lei. Abir decide di restare con i suoi genitori e le sorelle. E quindi dovremo separarci. Non so per quanto tempo. Non so se ci rivedremo più. Trovare un taxi a Rafah non è stato facile. Mi ha toccato andare a piedi da Sawarha a Salah ad-Din Road, dove ne passano tanti. 5 chilometri a piedi, anzi di corsa, o quasi. Erano le 14:40. Mancavano meno di 3 ore al calare del buio. Dovevo assolutamente raggiungere Rafa prima del buio. Il buio è un'altra cosa da temere, un altro elemento di incertezza. A quel punto ancora non sapevo dove andare a Rafa. Ho chiamato un amico che era lì per chiedergli di trovarmi un posto, consapevole di chiedergli l'impossibile. Più di 1 milione di sfollati si sono ammassati a Rafa, una cittadina di meno di 100.000 abitanti, che adesso ospita 10 volte il numero di persone che costituivano la sua popolazione. Chiamo il mio amico in continuazione, ma non riesco a collegarmi. Ci ho provato più di 60 volte e finalmente mi ha risposto. Mi ha detto di dirigermi alla sua casa di famiglia, a Rafa. So già che non hanno posto, che non c'è più spazio per nessuno. So che da loro ci sono già più di 100 persone. Sono arrivato da lui e mi ha accolto con un gran sorriso. Un bel colpo di fortuna. Come? Perché? Ho chiesto ad un amico ammanicato di trovarti un appartamento in affitto, a un uomo d'affari benestante, ma non è riuscito a trovare niente. E allora qual è la novità? E poi mi ha chiesto per chi sarebbe. Io gli ho detto che sarebbe per un amico con la madre costretta a letto. Allora ha deciso di ospitarvi a casa sua. Sul serio? Non voglio dare fastidio a nessuno. Non preoccuparti. Andiamo. È salito in macchina con noi, dando istruzioni all'autista per arrivare a casa del suo amico. Siamo arrivati a un bel edificio di 3 piani, con un cortile da un lato e un tetto di legno decorato. L'uomo era lì che ci aspettava con un bel sorriso molto espansivo ed accogliente. Ha chiesto ai suoi figli di aiutarci a scaricare la roba e non ha permesso che portassi nulla. Al piano terra c'era un bel salotto e una stanza da letto con bagno. L'uomo mi si è rivolto e mi ha detto: «Spero che questa possa andarti bene». Io sono rimasto senza parole, incapace di esprimere la mia gratitudine, seguitando a ringraziarlo. «Grazie! Grazie!» Ho messo mia madre a letto. Ci hanno portato da mangiare e mi hanno chiesto se volessi fare una doccia. Una doccia? Una doccia calda! Non ci potevo credere, sarebbe stata la prima volta in 3 mesi. Sono 3 mesi che mi lavo usando un secchio di plastica e l'acqua fredda. Dopo la doccia sono andato in cortile. C'erano degli uomini intorno al fuoco che stavano preparando il tè. Ci siamo accovacciati a terra e ci siamo fermati lì a chiacchierare fino alle 8 di sera. Poi ce ne siamo andati tutti a letto. Non facevano altro che chiedermi se avessi bisogno di qualcosa e non la smettevano di dire: «Tua madre è nostra madre, non preoccuparti per lei». Ho dormito. Mia madre ha dormito. Inverno, vento e acqua. Le urla di Abir mi svegliano alle 2 del mattino. Sta cercando di svegliarmi. Si era alzata per andare in bagno quando ha avvertito l'acqua sotto i piedi. Ha acceso la luce del telefonino e ha visto acqua dappertutto. Si è inzuppato una metà del mio materasso. La mia coperta è fradicia, la stanza è allagata e l'acqua ha raggiunto il salottino. Abbiamo svegliato tutti e ci siamo messi a cercare la falla. Abbiamo tentato di asciugare il pavimento. Abbiamo scostato il mio materasso e la coperta. Per fortuna l'acqua non è arrivata oltre la mia roba, altrimenti sarebbe stata una catastrofe. Non so come avremmo fatto a procurarci le coperte e i materassi asciutti necessari per 11 persone. Condivido il materasso di Abir, largo 60 centimetri, e la sua coperta. Dopo aver appurato che le cose erano andate così, le piogge erano cadute pesantemente la notte scorsa e l'acqua era entrata dal terrazzo. Al mattino ho fatto la spola tra le oeng, nella speranza di rimediare un materasso e una coperta. Mio fratello ha montato la sua tenda su un piccolo spiazzo a 1 chilometro di distanza da dove sto io. Quello spazio ristretto ospiterà almeno 30 tende. Arrivato lì, mi ritrovo sommerso dalla folla e dal rumore. C'è un andirivieni febbrile. Molte persone cercano di mettere coperte e materassi sopra le loro tende per asciugarle. Asciugarle. Una parola. Se la pioggia non dà segno di smetterla. Le tende del piccolo campo, inclusa quella della famiglia di mio fratello, sembrano annegare nell'acqua piovana. Dovrò procacciare altri materassi, altre coperte. Non so come fare. Non so proprio a chi rivolgermi. Migliaia e migliaia di tende che affogano sotto la pioggia. Ma che cosa deve fare la gente? Chi li aiuterà? più di 500.000 di persone che si inzuppano sotto la pioggia. Tutte queste tende sono servite a poco o a nulla. Svolazzano, poverine, lacerate dal vento e dalla pioggia. Dappertutto donne e bambini che piangono. Gli uomini si aggirano increduli, inermi, stremati, esausti, tristi, pieni di rabbia, impotenti, inseguono i brandelli delle loro tende di qua e di là, tentano di rammendarle come possono e intanto soffia il vento, cade la pioggia. Lì per lì il mio disagio mi è sembrato molto ridimensionato. Che cosa ho da lamentarmi? Dopotutto posso ancora condividere il materasso di 60 centimetri con Abir, dormire sotto la coperta asciutta, ho ancora un tetto di cemento sopra la testa, vedete? Sono fortunato. Solamente mi domando, dovrei sentirmi grato? Minore non accompagnato, 27 febbraio 2024. Oggi, ore 9:45, ho ricevuto una telefonata da un collega del Consiglio dei Rifugiati della Norvegia che chiedeva un aiuto immediato per un bambino non accompagnato. Mi ha detto, c'è un bambino che hanno lasciato alla scuola di Ibna. In base a quello che avevo sentito, era stato portato alla scuola dalla Croce Rossa. È una cosa della massima urgenza. Sono arrivato alla scuola, trasformato il rifugio in un quarto d'ora. Non c'è stato bisogno di chiedere del bambino. Era lì, nella stanza della direzione, seduto su una sedia, che mangiava un po' di riso e dei fagioli. Mangiava come se non avesse mai mangiato in vita sua, come se fosse l'ultima volta che avrebbe mangiato. Ho distolto lo sguardo da lui. Non volevo che si sentisse osservato. Il bambino ha finito di mangiare e ha cominciato a fissare il soffitto. Io gli sono andato vicino. Ciao, mi chiamo Ossam. Lui ha abbassato lentamente la testa. Mi ha guardato e mi ha detto, io sono Ahmad. Da dove vieni, Ahmad? Da Gaza City. Sei da solo? Dov'è la tua famiglia? Sono morti. Io mi sono bloccato. Non ho potuto chiedere più niente. Il bambino parlava con un tono piatto, senza nessuna emozione, nessuna reazione. Come sei arrivato qui? Li hanno uccisi tutti, sparati. Silenzio. Siamo andati via dall'ospedale Shifa, vicino al lungomare, ci hanno sparato. Mia madre, mio padre, mio fratello più grande, c'era gente che correva da tutte le parti e io ho corso, corso, corso. Silenzio. Hai una famiglia, Rafa? Zie? Zii? Lui mi ha guardato, poi ha guardato il soffitto, senza parlare per un po'. Io ho continuato ad aspettare, senza dire niente. Ho dormito per strada, a Nuseirat, Zuweida, a Deir al-Balah. Avevo paura. Adesso non ho più paura. Ho freddo. Ti darò una giacca adesso, le scarpe. Ti fa male da qualche parte? Sì, la testa, le gambe, lo stomaco. Non preoccuparti, ti portiamo all'ospedale per un controllo, d'accordo? No, non all'ospedale Shifa. No, non all'ospedale Shifa. Ok. Non so proprio che cosa abbia passato questo bambino, non so per quanti giorni abbia camminato, non so per quante ore abbia camminato, non so quali incubi abbia avuto. Non volevo continuare a parlarne con lui. Ha rivolto di nuovo la testa verso il soffitto. Io sono rimasto senza parole. Ha bisogno di uno psichiatra specializzato e non volevo correre il rischio di fare le domande sbagliate. Vuoi un po' di tè? Tè caldo? Ha mosso la testa, come per dire sì. Quanti bambini come Ahmad ci sono? Che non hanno ricevuto nessun aiuto e adesso sono stati lasciati da soli. Chi lo sa? Lo sfregiato. 18 febbraio 2024. Guardatevi in faccia, per uno shekel. Un bambino al mercato tiene in mano un pezzo di specchio di 15 centimetri quadrati e invita la gente a guardarsi la faccia oppure il corpo per uno shekel. No, non ci sono specchi da acquistare al mercato. Con 1 milione di persone che vivono in tenda, che non hanno niente, nessun modo di guadagnarsi da vivere, uno specchio è una cosa che proprio nessuno cerca o vuole. Quando mancano il cibo, l'acqua, l'elettricità, il latte o i pannolini per i bambini, una lavatrice o un frigorifero, un materasso, una coperta, una porta per un po' di privacy, o una stanza da bagno, un forno per cucinare, o un piatto per metterci dentro il cibo, uno specchio è una cosa che si dimentica. E l'aspetto che si ha per gli altri è una cosa che non ha alcuna importanza. Il ragazzino cerca di guadagnarsi da vivere offrendo un servizio molto raro. Io non ho visto la mia faccia da quando sono arrivato a Rafa, né ho visto uno specchio. Ho chiamato il ragazzino: davvero ci guadagni offrendo questo servizio? Sì, molta gente lo vuole. Io guadagno almeno 30 shekel al giorno, $7.50. Buon per te. Lo vedi quell'uomo? Indica un uomo a 20 metri da noi che cammina nella direzione opposta. Che ha fatto? Si è guardato in faccia nello specchio e poi me l'ha restituito, ma non mi ha pagato niente. Mi ha solo restituito lo specchio ed è andato via. Non l'ho fermato. Mentre si guardava allo specchio gli ho chiesto: cos'è quello? Aveva un taglio sul viso a partire dalla fronte e giù fino al torace, un taglio lungo, brutto, ancora non guarito bene, una brutta cicatrice molto lunga. Credo che fosse dovuta ad una ferita oppure a uno shrapnel. Si è guardato la cicatrice e mi ha restituito lo specchio. Ho visto le lacrime nei suoi occhi, quindi l'ho lasciato andare. Non gli ho chiesto di darmi uno shekel. Io non ho detto niente. Ho preso lo specchio, mi sono guardato la faccia, che è diventata molto magra. Io mi rado senza specchio, quindi alcuni dei miei peli sul viso sono più lunghi degli altri e la mia faccia sembra una cicatrice. Non ho pianto. Ho dato al bambino 2 shekels e ho continuato a camminare. Cosa resta per noi? Cosa resta di noi? 29 marzo 2024. Ossa coperte dalla pelle e da qualche straccio sporco. Facce non rasate da settimane, passi involontariamente lenti, teste chine, mani e facce sporche, piedi scalzi dei bambini. La disperazione manifesta, è così chiara e spessa, riempie l'aria. Chiunque può sentirla, annusarla, toccarla. Disperazione che si muove, controllando l'atmosfera. Come se io diventassi una creatura vivente solo gridando forte: io prevalgo! Non c'è posto per niente, se non per me, la disperazione. Cosa ci rimane? L'occupazione di un esercito brutale, selvaggio e omicida, su una terra condannata. Uomini spezzati, donne sconfitte, bambini distrutti. Nessun passato, nessun futuro, ma il presente, il momento attuale, la sopravvivenza, se possibile, ma di sicuro non la vita. È questo il popolo di Gaza? E io sono l'uomo che una volta ho vissuto per 55 anni? Ho avuto momenti buoni e cattivi, come qualsiasi essere umano? Mi sono innamorato? Sono andato in spiaggia e là mi sono divertito? Ho bevuto un bicchiere di buon vino con amici cari? Sono diventato padre e ho vissuto tutte quelle onde di emozioni? Ho provato la tranquillità di avere una casa mia dopo 30 anni di duro lavoro? Ho viaggiato, ho incontrato nuove persone, ho goduto nuovi posti? Lo so che l'ho fatto. Sono stato in Belgio lo scorso maggio, e in Svezia, e in Giordania. So che mi sono divertito molto con nuovi e vecchi amici. So che ero così felice di vedere il mio amico Jonathan dopo 11 anni che non lo vedevo. So che mi è piaciuto molto scalare una montagna. Ma perché non sento niente? Perché la mia memoria è piatta, senza emozioni? E anche i ricordi tristi non provocano nessuna emozione. Cosa mi è successo? Quale parte di me mi è stata sottratta? Mi sento pesante, molto pesante. Il movimento è pesante. Il respiro è pesante. Porto un cuore molto pesante, mi fa male dentro il petto. Cosa resta di me? Il residuo di un essere umano. Cosa resta di noi? Alcune ossa coperte dalla pelle e forse un po' di sangue nelle vene. Nessuna anima, nessuna vita. Siamo vivi solo fino a nuovo avviso. 6 mesi. 10 aprile 2024. 6 mesi. Davvero sono già passati 6 mesi da quando abbiamo perso le nostre vite normali. Dal momento in cui le nostre vite sono state congelate fino a un livello letale. 6 mesi. Da quando abbiamo perso il nostro passato e il nostro presente. 6 mesi. Da quando abbiamo smesso di pianificare il nostro futuro. 6 mesi. Da quando la macchina per uccidere dell'esercito israeliano ha attraversato i nostri corpi come un coltello che passa attraverso il burro. 6 mesi di paura, panico, sangue, morte, distruzione, danni alle case e alle anime. 6 mesi di carestia, sete e malattia. 6 mesi da che i morti giacciono sepolti ovunque, tranne che nei cimiteri. Sono 6 mesi che a Gaza tutti i sentimenti e le emozioni umane sono ridotti alla paura, alla tristezza, alla rabbia, alla perdita e alla disperazione, senza altri sentimenti. 6 mesi e 33.360 persone massacrate a sangue freddo, più di 15.400 delle quali sono bambini. 6 mesi e 75.993 esseri umani feriti, sanguinanti, amputati e privi di alcun trattamento sanitario adeguato. Sono 6 mesi che non riesco a tornare a casa mia. Sono 6 mesi che conservo la chiave della mia porta d'ingresso, chiedendomi quando potrò usarla. Sono 6 mesi che non posso incontrare i miei fratelli e le mie sorelle, che sono a Gaza City e nel nord. Sono 6 mesi che i miei fratelli e le mie sorelle non possono vedere la loro vecchia madre malata. Sono 6 mesi che gli uomini non hanno lavoro. Sono 6 mesi che i bambini sono diventati venditori ambulanti invece di andare a scuola. Sono 6 mesi che le donne chiedono l'elemosina per le strade. Sono 6 mesi che l'unico desiderio di 2.300.000 persone è quello di riuscire a assicurarsi un pasto quotidiano e una tenda adeguata con cui passare la notte. Sono 6 mesi che il sonno di 2.300.000 persone è disturbato dai rumori di esplosioni, bombardamenti, dal ronzio dei droni e dalle loro paure, vecchie e nuove. Sono 6 mesi che 2.300.000 persone non sognano di notte, ma hanno solo incubi che li svegliano e disturbano il loro sonno. Sono 6 mesi che 2.300.000 persone sperano di dormire per una volta in pace e in tranquillità. 6 mesi. C'è una fine a questo incubo. Grazie a Elio, Antonio, Tanita, Iante, Leo, Ruth, Fabio, Marta e Manuela. Gaza Ora, Messages from a Dear Friend. Testi Hossam Al-Madun, progetto As Theatre di Londra e Theatre for Everybody di Gaza. Regia Jonathan Chadwick, Ruth Lass, Iante Roach,

Io questi fumetti li avevo realizzati nella metà degli anni 90 per uso privato, erano fumetti che non avevo condiviso proprio perché appunto rappresentavano questa passione sia per i fumetti che per l'erotismo. Ma a un certo punto Maurizio Ceccato è venuto nel mio studio per presentare un altro libro della sua collana e io così gli ho detto: ti va di vedere dei fumetti che ho realizzato? Ma senza avere grandi aspettative, e neanche lui insomma si aspettava niente di particolarmente interessante. L'ho visto un po' svogliato. Quando poi invece ha visto sia i fumetti che le tavole, ho visto che ha cambiato atteggiamento e mi ha detto: guarda, facciamo un libro. E così è stato, e dal punto di partenza iniziale dalle tavole originali poi siamo arrivati a riscriverne molte altre. Abbiamo proprio sviluppato il progetto in un senso diverso che appunto andava a confluire in questo libro dalla difficile tipologia, perché fondamentalmente è un libro d'artista, però avendo comunque una tiratura di 5.000 copie non è il classico libro d'artista, ma non è un libro a fumetti, non è un libro di testi poetici, perché ci sono questi testi che ha scritto Marco Giovenale, che lui definisce super eraiku, vale a dire è un po' un'ironia sul tema dell'haiku, perché sono molto brevi ma non rispettano le regole tradizionali e sono comunque ispirate ai supereroi. Che struttura gli avete dato? È ibrida come tutto il libro e quindi c'è una sorta di alternanza, si alternano le storie a fumetti, che sono quattro, poi ci sono queste tavole in cui ridipingo capolavori dell'arte storica, da Leonardo a Michelangelo fino ad arrivare ad artisti più vicini a noi, e nello stesso tempo ci sono questi testi, alcuni testi sono scritti da me e altri appunto come dicevo da Marco Giovenale, e si alternano secondo appunto questa scansione tra testi, illustrazioni e storie a fumetti. Passiamo alla rassegna, ce la presenti? Sì. La rassegna Libridine nasce nello studio Campobuario nel 2017, quindi un po' di tempo fa, e ne è stata portata avanti una seconda edizione nel 2022 e adesso siamo alla terza. È una rassegna che presenta libri di ogni tipo, ci sono romanzi, ci sono saggi, ci sono scritture di ricerca e testi poetici. La rassegna prevede delle presentazioni, ma non solo, ci sono anche in abbinamento mostre. Nella rassegna del 2024 c'è una mostra delle tavole appunto del mio libro e ci sono anche performance e anche un mercatino finale in cui gli autori vengono, dialogano con il pubblico che può ovviamente acquistare i libri. Parte 24 maggio. Il 24 maggio abbiamo Ritorno, che è un libro scritto da Gabriella Pace, un libro poetico edizioni Il Labirinto. Mabuia, che è una rivista invece realizzata da due ragazze molto giovani, di testi anche questo e di immagini. E poi c'è Enigma. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Lo studio Campobuario si trova sia su Instagram che su Facebook. Lì pubblichiamo tutte le informazioni relative alla rassegna. In questa settimana poi ci sarà anche l'ARF, che è la fiera del fumetto che si tiene al villaggio dell'Altra Economia, e lì sarò presente la mattina del 26 per un firmacopie, per chi vuole acquistare il libro lì. Il libro Enigma all'interno della rassegna Libridine a Roma, allo studio Campo Boario, dal 24 maggio al 16 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento all'autore Alberto D'Amico. A presto! Grazie Federico, a presto! Con Celeste del Comitato di Quartiere Villa Certosa per presentare la 14ª edizione della Festa di Ciro Principessa a Roma, Largo dei Savornian, sabato 8 giugno 2024. Ben trovato! Ciao Federico, allora intanto vorrei ringraziare i compagni di Radio Onda Rossa che tutti gli anni ci mettono a disposizione questo spazio per pubblicizzare questa iniziativa che rafforza il concetto di antifascismo e di democrazia del quale oggi c'è un disperato bisogno. Conosciamo la situazione con i governi che abbiamo, con i fascisti che in Italia e in Europa stanno comportando, come abbiamo visto col caso di Ilaria Salis. Vorrei presentarvi la festa e dirvi che quest'anno ci saranno molti dibattiti politici, avremo un incontro con i compagni della comunità palestinese di Roma e del Lazio, della comunità palestinese, e questo dibattito lo faremo alle 17.30 al Giardino Liberato. Avremo uno spazio apposito per loro, per i compagni palestinesi, per far sì che giunga a loro anche attraverso questa iniziativa la nostra posizione di ferma condanna e di sostegno alla lotta del popolo palestinese per far fermare i bombardamenti e quindi il combattimento che c'è in corso nelle aree occupate da Netanyahu e i suoi pesce cani. È una storia vecchia che conosciamo, noi eravamo ragazzini quando sostenevamo le lotte di Arafat all'interno del Partito Comunista, noi vedemmo piangere gli uomini della scorta di Arafat per i massacri di Shadra e Shatila che avevano i familiari in quei campi, quindi ci ricordiamo cose di questo genere, drammaticissime, noi eravamo presenti in quel momento, quindi conosciamo la storia del popolo palestinese e siamo al suo fianco, quindi non solo dal quartiere, quest'anno poi è l'occasione per quello che sta succedendo a Rafah e a Gaza, appunto per rinnovare questo nostro nuovo impegno. Poi alle 19 invece ci sarà un altro dibattito su quelli che furono quegli anni, gli anni cosiddetti di piombo, quelli che furono gli anni che le sinistre, la sinistra, almeno quella istituzionale, quella chiamata storica, poteva aspirare a governare il paese, che di fatto stava in mano a quelle che erano i diktat americani e che lo sono tuttora purtroppo, e che fecero di tutto per allontanare il Partito Comunista, partito al quale sia Ciro che noi appartenevamo, e pur avendo forti contrasti con i compagni dell'autonomia, oggi ci ritroviamo insieme a loro in un percorso comune, ma come da presto c'era anche ieri, nella lotta contro il fascismo e contro l'imperialismo. E quindi alle 19 ci sarà questo dibattito che tratterà quel periodo, quello degli anni appunto, l'attacco alla Costituzione e alle libertà, ai diritti acquisiti nel corso dei decenni precedenti con le lotte dei lavoratori. Raccontiamo anche un po', per chi non la conoscesse, la vicenda di Ciro Principessa. Un ragazzo di borgata vera e propria, nel senso di origine meridionale, un ragazzo che veniva da una famiglia numerosa, con una bassa scolarizzazione, ma con una sensibilità particolare per le vicende politiche. Io mi ricordo che nonostante avesse difficoltà con l'italiano, mi chiedeva continuamente a me, che ero come lui, un ragazzo di borgata come lui, anch'io con una bassa scolarità, un basso livello diciamo anche culturale, però il spiegargli delle cose, era molto sensibile a questo tema, che piano piano, diventando anche amici insieme ad altri come Claudio, come Paolo, Ivano, Danilo e gli altri, diventò un militante del Partito Comunista, era talmente convinto di questo che è una presenza costante, su di lui ci si contava veramente. E una sera, 19 di aprile del 79, mentre stavamo organizzando le iniziative per il 25 aprile, il fratellastro di Riccardo Minetti, che era un detenuto di estrema destra nel carcere di Servizia, venne trovato ucciso l'anno precedente. I fascisti di Prati misero poi dei manifesti che accusavano i comunisti, no? Anche loro detenuti, di averlo vessato e costretto al suicidio. In realtà questo Riccardo Minetti era il fratello di Claudio, appunto, l'assassino di Ciro, era chiamato come testimone della strage di Piazza Fontana. Quindi era un personaggio vicino a certi ambienti, per certi versi forse anche pericoloso. Bene, Claudio, il fratello di Riccardo, si presentò nella nostra sezione a Torpignattara il 19 di aprile, la sera, chiedendo un libro, e i compagni fecero presente che gli sarebbe stato dato a condizione che ci avesse dato un documento. Quel documento lui non ce lo volle dare e se ne andò, ma rientrò all'improvviso, afferrò un libro, I vivi e i morti, credo che si chiamasse, e uscì di scatto. I compagni lo rincorsero, tra i quali c'era Claudio, che oggi è presidente del nostro comitato, e Ivano, mio cugino, e altri compagni provarono a fermarlo. C'era Ciro tra Claudio e Ivano, e sferrò due pendenti, uno vicino al torace, vicino al cuore, e l'altro vicino al rene, anzi totalmente grave la cosa, che poi mi ricordo il chirurgo del San Giovanni, con cui io ebbi modo di parlarci tre ore dopo, e mi disse che aveva perso troppo sangue, che la sua condizione era gravissima, e morì la mattina successiva, il 20 aprile, verso le 5 del mattino. Poi l'assassino venne il fascista, fratello di Minetti, che era poi il figliastro di Stefano Treghiaia, stiamo parlando di gente nera come la Rece. Questo venne poi catturato all'interno di un bar lì vicino dove si era rifugiato, perché i compagni avevano assediato il bar, venne la polizia e il poliziotto saltò addosso a Ivano per portarlo via, perché sono vicendo fino al mondo per prendere questo, e lo portarono via. Venne condannato a 10 anni di manicomio criminale, perché lui aveva un entroterra di questa natura, cioè psichiatrica, ma in realtà per noi, vedendo poi bene le cose come andavano, secondo noi lui è stato mandato su quel delitto politico, che fu un delitto politico, non fu mai fatta luce. Io mi ricordo benissimo che periodo era, tant'è vero che nel telegiornale TG2 della sera, mi ricordo benissimo, il giornalista rafforzò il termine dicendo: questa sera nella stazione di Torpignattara è stato accoltellato un militante del Partito Comunista, Ciro Principessa, da uno, e disse proprio, facendo l'espressione come rafforzato quando il concetto già da uno squilibrato, definitosi di destra, quindi lui passò per squilibrato, mentre per noi invece fu un omicidio premeditato. Come si faceva all'epoca, urlavano tutti i mezzi, e lo stesso giorno poi ci fu la bomba al Campidoglio, ci fu una serie di brutte iniziative prese dai fascisti in quel periodo. Bisognava destabilizzare il quadro politico generale, impedire che il Partito Comunista governasse questo paese, insomma, era un brutto periodo, ecco. E quindi ecco, Ciro morì così, e noi, grazie anche ai compagni di Radio Onda Rossa, ma soprattutto anche, vorrei ricordarlo sempre con grande affetto, anche con grande forza, Flavio Albertini Rossi, che insieme a Francesca Bracci furono loro che, venendo a abitare nella nostra zona, ricordarono Ciro e convinsero noi a rimettere in piedi queste iniziative, e ora sono 14 anni che la riportiamo avanti ogni anno. 14esima edizione della festa di Ciro Principessa a Roma, Largo dei Savornian, sabato 8 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento a Celeste del Comitato di Quartiere Villa Certosa. Ci vediamo lì. Sì, grazie. Ciao, ciao Fede. Con Lorenzo Terranera, uno dei curatori della 19esima edizione della Festa di Strada Bertani Dai, dal titolo Sottobosco. A Roma, via Agostino Bertani, domenica 9 giugno 2023. Ben trovato. Ben trovati. Spieghiamo cos'è questa festa. Questa è una festa che è nata in una cantina, qui in mezzo proprio del cuore di Trastevere. Siamo vicino a Piazza San Cosimato, dove tra poco partirà anche il cinema in piazza con i ragazzi del Cinema America. Dunque, questo è nato appunto circa una ventina d'anni fa per, diciamo così, l'esigenza di far capire che, insomma, sotto in questa cantina succedevano delle cose, insomma, non losche, ma si lavorava, insomma, diciamo. E quindi da lì è partita un po' questa idea di far conoscere gli spazi e aprire gli studi. Poi a un certo punto è diventata una cosa ancora più grande, appunto dell'occupazione del suolo pubblico, perché siamo per strada, chiudiamo una strada, in realtà ne chiudiamo due, e quindi comunque tutte le problematiche legate alla mobilità e parcheggi, specialmente qua a Trastevere, pare sia un problema abbastanza noto. E quindi è partita così, con il patrocinio del primo municipio. Stiamo ancora lavorando alle scenografie, lo facciamo insieme alle ragazze e ai ragazzi della scuola di illustrazione Officina B5, e poi un po' tutte le attività qui che sono sulla strada, che facciano sulla strada tutti i Bertani, contribuiscono con varie, diciamo, ed eventuali, quindi laboratori, appunto scenografie, abbellimenti. Sarà dalla mattina alla sera, che attività? Partiamo dalle 10:30, sì. Sì, arriviamo, chiudiamo come al solito con l'ultimo concerto, che è quello degli Attilo. Chiudiamo con loro, insomma, come tutti gli anni. Che attività ci saranno durante il giorno? Durante il giorno ci avremo laboratori per bambini, ma anche per grandi. Ci sarà per fare un gioco, c'è Iulli con le Filastrocche, c'è il Teatro Verde con uno spettacolo. Poi ci sono chiaramente i concerti che partono dal primo pomeriggio, con gruppi che gravitano, insomma, fra Trastevere e Monteverde, ecco, comunque con i quali siamo in contatto, che vengono, che suonano ogni anno, anche ci sono altri gruppi nuovi, anche di giovanissimi. E poi ci saranno mostre, ci saranno appunto lungo la strada esposizioni, ci sarà un po' d'artigianato, come al solito, banchetti d'artigianato. Come mai il titolo Sottobosco quest'anno? Sottobosco è uscito fuori così. Cioè, in realtà era uscito fuori il bosco, ho detto, ma proprio Fabio, mi sembra, proprio Fabio Magnasciutti ha detto Sottobosco. Effettivamente è più intrigante, ci presta anche a più visioni, insomma, anche per chi si cimenta e nelle scenografie, anche perché ha fatto la locandina, insomma, l'immagine che poi troviamo in giro sulla rete, l'abbiamo trovata più intrigante, quindi l'abbiamo accolta subito, insomma, ecco. Ci sarà anche la possibilità di mangiare qualcosa? Ci sarà anche la possibilità di mangiare qualcosa, chiaramente qui c'è il ristorante, c'è la spaghetteria, e comunque noi poi, alla fine, per chi, insomma, viene qui e lavora, ci sarà un punto ristoro. Come al solito, le magliette, stampate in serigrafia, ci saranno i giochi, però dimenticato. Ci saranno i giochi, il solito giocone, quello lungo, il legno. Ci dai tutti i riferimenti internet? Vicina a B5,

con Franco Tuba alla regia di questo Il Bastardo Maschio Crudele, il caso sempre attuale del Don Giovanni alle prese con tutte le sue donne, ma insomma il castello di carte del bastardo verrà a cadere poi insomma nelle bugie, negli equivoci in cui lui stesso insomma si sarà infilato. Quindi questo per quanto riguarda il Bella Monaca. Andiamo poi a vedere Teatro Argentina, dove il 9 di giugno, che è domenica alle 19, andremo a vedere lo spettacolo del laboratorio del Piero Gabrielli con la regia di Roberto Gandini, firmato da lui e da Roberto Scarpetti, che si chiama appunto Scappati di casa. E sono 20 ragazzi che portano in scena il nostro presente tra disastri ecologici, guerra, corruzione. Questo è quello insomma che andremo a vedere. Il laboratorio teatrale integrato Piero Gabrielli presenta questo Scappati di casa e sarà a ingresso libero Teatro Argentina alle ore 19. Poi ancora da oggi fino al 5 di giugno al Teatro India torna il Festival dei Laboratori Teatrali delle Scuole Romane alle Saint-Paul, un micro festival appunto dedicato alle scuole superiori. Andiamo a vedere tanta bella gioventù dal 5 giugno, da oggi fino al 5 di giugno al Teatro India. Mentre continua il Festival Inventaria, e che presenterà dal 7 al 9 giugno al Teatro Sofia, via della Vetrina 7, insomma, dalle parti del Rione, Parione, Piazza della Pace, lì da quelle parti. Il 7 giugno Le Cattive Abitudini con la regia di Jacopo Neri, su tre fratelli che si ritrovano alla vigilia di Pasqua, in queste vedremo insomma Le Cattive Abitudini sui sensi di colpa, sulle responsabilità e il legame di sangue insomma tra questi personaggi. L'8 giugno andremo a vedere Psicodrama di Matt Wilkinson, la regia di Valerio Mieli, e in scena Valentina Virando, un'attrice che non lavora più, e vabbè, fino a qui nulla di strano, come dice la scheda. Un giorno però arriva la telefonata che potrebbe cambiare la vita a questa attrice, e andremo poi a capire cosa le succederà in questo nei meandri, diciamo, di questo teatro che parla di se stesso, come costantemente accade. Sono tantissimi gli attori e attrici che parlano di attori e attrici in genere in teatro, accade fin troppe volte alla faccia dell'autofiction, insomma. E il 9 giugno invece Ananke Teatro presenterà questo Nakba, che è un lavoro sulla guerra, sull'invasione, lo scontro tra identità, sulla protezione e perché no, anche sull'amore, alla regia e alla drammaturgia Roberto Simonte. Ecco, questo mi sembra interessante. Quindi perché no? Al Teatro Sofia per Inventaria. E poi non ci resta che segnalare un paio di cosine ancora. Domenica 9 giugno alle 20 andremo al Monk a vedere Grandi Numeri di Lorenzo Maragoni, ed è uno spettacolo insomma che prende coscienza di quanto gli algoritmi Big Data stiano in qualche modo definendo il nostro modo di vivere contemporaneo, e anche come cambia il senso della conoscenza in un mondo in cui conoscere è semplicemente avere maggiori informazioni possibili. E Grandi Numeri mette insieme stand-up comedy, slam poetry e il rapporto con il pubblico. Lorenzo Maragoni in questo è un po', diciamo, un maestro, quindi sarebbe il caso di andarlo a vedere domenica 9 giugno alle ore 20 al Monk. Segnalo anche che al Teatro Torlonia, invece sempre domenica, potremmo anche doppiare perché è prima tutto questo, alle ore 19 andremo a vedere questo lavoro filmato alla regia di Paola Rota, che è la mise en scène di questa drammaturga che è Lynn Nottage, che non è mai stata rappresentata in Italia. Quindi ecco, se c'è un pensiero, uffa, fabulazione o la rieducazione di Undine, questo è quello che andremo a vedere al Teatro Torlonia il 7 di giugno. Ultimissimo appuntamento è per un giorno che insomma ci riguarda sempre poco, però sia il lunedì, dove in genere non si fa teatro, ma in questo caso al Teatro Argentina alle ore 21, nel giorno del centenario della morte di Giacomo Matteotti, per celebrare i 100 anni dall'assassinio. Dimmi tu che dobbiamo celebrare i 100 anni di un omicidio. e andremo a vedere questo Giacomo, un intervento d'arte drammatica in ambito politico. È uno spettacolo appunto dedicato a Giacomo Matteotti dalla compagnia Teatro di Borgia. In scena ci sarà Elena Cotugno, nel progetto la regia di Giampiero Borgia. Questo per quanto riguarda il teatro, diciamo, dei più grandi. L'ultimissima cosa che ricorderei è il teatro invece dei più piccoli, perché continua il Torpigno World Kids Festival, vabbè, festival a Torpignattara di teatro per bambini, con uno spettacolo che, anzi due spettacoli, perdono, e sempre in seno al Teatro della Fortezza Est. Il 6 e 7 giugno, giovedì e venerdì, andremo a vedere Officina Prometeo di Francesco Picciotti, che ho appena visto qualche giorno fa, in realtà molto carino, dedicato appunto alla mitologia e come questa può essere raccontata attraverso la marionetta. E invece, liberamente ispirato alla filastrocca Giro Tondo di Tutto il Mondo di Gianni Rodari, Favole intorno al mondo, sabato e domenica 8 e 9 giugno, è uno spettacolo nato da una scrittura collettiva sul tema della favola come gioco. In scena ci saranno Alessia Danna, Diego Valentino Venditti, diretti da Riccardo Sinibaldi. E questo è tutto. Ciao ciao! Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.